Mezzanotte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, quanta carne al fuoco anche questa sera. Per i vegetariani diciamo tante melanzane al fuoco, insomma come preferite, i temi sono tanti. Avete sentito anche il microfono, ha avuto un'espressione, quasi un'esclamazione di sorpresa, perché di politica ce n'è veramente molta, da Renzi oppure dagli attacchi della segretaria della CGIL Camusso al governo Renzi, e poi Berlusconi che fa una specie di dietrofront, anzi un doppio dietrofront su due argomenti di cui parleremo. Torniamo naturalmente a parlare anche di questo caso di terribile cronaca nera a Firenze, e poi altri argomenti, naturalmente anche il calcio. C'è una partita che sta iniziando in questi minuti, dovrebbe iniziare in questi minuti, quella tra Napoli e Cagliari, e poi ci aggiorneremo man mano, viste le tensioni di questi giorni, anche la follia degli ultra fuori dall'Olimpico di Roma. Ma allora, quindi non perdiamo tempo, vi ricordo che però per i vostri commenti, per le vostre osservazioni, ci sono sempre i due canali, che sono la pagina Facebook di Effetto Notte. Per esempio, vedreste di buon grado un rientro di Forza Italia nella maggioranza, come oggi aveva lasciato così trasparire Berlusconi, anche se dopo un pochino ha ritrattato, ha detto solo se ci fosse una catastrofe. Insomma, c'è la pagina Facebook di Effetto Notte, oppure i messaggi al 349-238-6666. Andiamo a vedere però com'è stata complessivamente questa giornata. Firenze spunta un'altra vittima che però si è salvata, si parla di altri casi simili e parte la caccia al serial killer. Calcio violenza, stadi vietati per 5 anni per l'ultra dell'Olimpico, e questa sera il Napoli torna in campo contro il Cagliari, annunciato il DASPO anche per chi indosserà le maglie pro speziale. Congresso della CGIL, la leader Camusso contro Renzi, senza concertazione dice si distorce la democrazia. Forza Italia pronti a entrare nella maggioranza per il bene del paese, fa sapere Berlusconi, e apre anche alle primarie nel partito. Ucraina, l'Unione Europea preme per il rispetto degli accordi, Mosca apre a Ginevra 2. Ferrari, Marchionne assicura, non è in vendita, il cavallino resta a casa Fiat. Iniziamo quindi come vi dicevo, da questo brutale, tremendo fatto di cronaca, di cui abbiamo parlato ampiamente anche ieri, della giovane donna brutalmente seviziata e uccisa a Firenze. Le indagini della Polizia di Firenze sono coordinate con i carabinieri e risalgono episodi analoghi a quello di domenica notte che negli ultimi 10 anni si sono verificati a Firenze e provincia, ma anche a Prato. Violenze sessuali e sevizie su donne che sono state legate e derubate sono numerosi, anche i casi raccontati da alcuni testimoni che però non sono stati denunciati dalle vittime alle forze dell'ordine. Ma ascoltiamo Lorenzo Bucossi, capo della squadra mobile. Noi chiaramente stiamo scavando in tutte le direzioni, comprese queste è evidente, l'identificazione della donna è stata già fatta il pomeriggio senza ombra di dubbio, e anche quindi confortata poi dal confronto dattiloscopico con le impronte della vittima, su questo quindi non abbiamo dubbi. Andrea Cristina Zanfira è stata trovata nuda, legata con nastro per pacchia a una sbarra che delimita una strada sterrata sotto il cavalcavia dell'autostrada del Sole nei pressi di Ugnano, una frazione tra Firenze e Scandicci. Un anno fa alla stessa sbarra un'altra prostituta rumena fu trovata legata, seminuta e agonizzante. In quel caso le sue urla furono sentite dagli abitanti che accorsero e la salvarono. La donna raccontò di essere stata avvicinata da un uomo di 50-60 anni con il quale si sarebbe appartata, ma l'uomo l'aggredì e la seviziò. Gli inquirenti sono sicuri che dietro a questi delitti ci sia un serial killer, un maniaco che colpisce prostitute. Infatti per il momento non si hanno notizie di casi con una vittimologia diversa, e dell'inchiesta se ne sta occupando il PM Paolo Canessa, che ha seguito anche le inchieste dei duplici delitti attribuiti al mostro di Firenze. Altro elemento importante è il nastro per pacchi utilizzato per legare la giovane rumena, proviene dall'ospedale di Careggi, che in passato è stato ritrovato anche in un'altra violenza commessa su un'altra donna. Ubaldo Cianciulli, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Firenze. E di questo fatto poi, come vi dicevo, parleremo tra poco con uno dei principali scrittori di thriller in Italia, anche conoscitore del comportamento umano. Ma passiamo al calcio. Si gioca in questi minuti, come vi dicevo, l'attesa partita, attesa soprattutto per la tensione e la preoccupazione che porta con sé, Napoli-Cagliari, preceduta dalle polemiche. I tifosi che durante Napoli-Cagliari indosseranno la maglietta con scritto speciale libero saranno individuati e saranno sottoposti a DASPO, così ha fatto sapere il ministro dell'Interno Alfano. Stadio vietato poi per Gennaro Di Tommaso. A 3 giorni dalla pagina nera della Coppa Italia arriva una prima risposta concreta da parte delle autorità. Daspo di 5 anni per Genia Carogna, insieme a una denuncia per istigazione a delinquere, a comunicarlo allo stesso ministro dell'Interno Alfano. Cresce intanto la preoccupazione per la partita Napoli-Cagliari di questa sera e sempre il titolare del Viminale fa sapere che chi indosserà magliette con su scritto speciale libero o simili contenuti sarà sanzionato e sottoposto a Daspo. Si parla infatti di almeno 30.000 magliette che i tifosi partenopei starebbero preparando. Il ministro intanto è tornato a smentire che sabato sera ci sia stata una trattativa con gli ultra, non stanno in cielo né in terra. Domani lo spiegherà nell'aula della Camera, così come richiesto a gran voce dalle opposizioni. E dopo al prefetto di Roma presenterà un piano speciale per la sicurezza della capitale, mentre si lavora ad un provvedimento per contrastare la violenza negli stadi che potrebbe approdare a Palazzo Chigi già la prossima settimana. E a chiedere misure severe anche il presidente del CONI. Bisogna fare, dice Malagò, come la Thatcher con gli hooligans. Alle società di calcio si rivolge invece il premier Renzi chiedendo un maggior coinvolgimento per sostenere i costi della sicurezza, una misura che non trova d'accordo Berlusconi, presidente onorario del Milan. I club non hanno né le risorse né la competenza. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. L'esame dello STUB non inchioda Daniele De Santis. Il test sull'uso di armi da fuoco effettuato sull'ex capo ultra romanista è risultato infatti parzialmente negativo. Le poche particelle individuate sono comunque compatibili con polvere da sparo, sostengono però gli inquirenti, che restano convinti che sia stato lui a ferire a colpi di pistola i 3 tifosi del Napoli prima della finale di Coppa Italia. Diversi testimoni hanno raccontato di averlo visto impugnare una pistola, la Beretta 7.65, con matricola a brasa, poi ritrovata non lontana dal luogo dove De Santis è stato affrontato e malmenato dai tifosi partenopei, contro i quali qualche minuto prima avrebbe lanciato sassi e petardi, una provocazione alla quale potrebbero aver partecipato anche altri ultra giallorossi, poi fuggiti prima della sparatoria. La Digos sta esaminando tutti i filmati degli scontri nel tentativo di identificarli, mentre De Santis resta indagato per tentato omicidio. Peggiorano nel frattempo le condizioni di Ciro Esposito, il più grave dei 3 tifosi napoletani feriti. Il ragazzo è sempre ricoverato in prognosi riservata al Gemelli di Roma, dove nella notte è stato sottoposto ad un nuovo intervento d'urgenza all'addome. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E come vi dicevo, dovrebbe essere in corso la partita Napoli-Cagliari, che chiediamo conferma a Dario Ricci. Tutto liscio per ora, Dario? Sì Roberta, siamo al 10° del primo tempo, la partita è ancora sullo 0-0 ed è iniziata con il giro di campo da parte della squadra partenopea, che ha voluto festeggiare sobriamente la conquista della Coppa Italia e poi con applausi e striscioni dedicati proprio a Ciro Esposito. Finora non si hanno notizie invece di queste famigerate magliette con la scritta speciale libero che erano state preannunciate dagli ultra e che avevano portato alla levata di scudi da parte della questura e del ministro Alfano. Da segnalare anche che prima della gara è stato letto un messaggio di solidarietà nei confronti della vedova dell'ispettore Raciti da parte dell'associazione Vittime del Dovere, quell'associazione di cui la stessa Marisa Grasso, la vedova Raciti, fa parte. Grazie Dario Ricci, poi man mano ci aggiorniamo naturalmente sulla partita, sperando appunto che prosegua tutto per il meglio. Adesso invece parliamo di politica. Oggi si è aperto a Rimini il congresso della CGIL e la segretaria generale Susanna Camusso ha attaccato il governo Renzi. Contrastiamo e contrasteremo l'idea di un'autosufficienza del governo che taglia non solo l'interlocuzione con le forme di rappresentanza, ma ne nega il ruolo di partecipazione e di sostanziamento della democrazia. Una logica di autosufficienza della politica che sta determinando una vera e propria torsione democratica verso la governabilità a scapito della partecipazione. Restiamo sulla politica con l'apertura di Forza Italia, come vi dicevo all'inizio, sul fronte delle riforme e non solo. Non escludo che per il bene del Paese possa esserci la necessità di stare tutti insieme per assumere alcune importanti decisioni. Così Silvio Berlusconi apre l'ipotesi di nuove larghe intese, lo fa con cautela. Non posso assicurare che accada, dice l'ex premier, dovremo guardare a quello che succederà all'economia, aggiunge. Ma la proposta è lanciata e subito bocciata. Noi andiamo avanti per la nostra strada, senza guerre ideologiche, senza inciuci, risponde il portavoce del PD Lorenzo Guerini, che aggiunge le parole parole di Berlusconi sono frutto della lettura dei sondaggi e del fatto che gli italiani credono in Renzi. Chiusura anche da parte di Nuovo Centrodestra. È l'ennesimo contrordine, commenta Gaetano Quagliariello. Berlusconi poteva pensarci 7 mesi fa. Ma quella delle larghe intese non è l'unica apertura arrivata dall'ex premier nell'intervista rilasciata a Radio Anch'io. Berlusconi infatti fa anche sapere di considerare inevitabili le primarie come formula per scegliere i vertici per Forza Italia. Quanto ad una possibile candidatura di Marina, l'ex premier spiega: ho sempre lasciato decidere i miei figli su quello che intendono fare, ma ho sconsigliato loro di entrare in una politica come quella di oggi in Italia. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Poi leggerò i vostri commenti anche su questo tema, sui temi della politica, se ritenete che sia opportuno, lo vedreste bene rientrare Forza Italia nella maggioranza. Già c'è Riccardo Bellumori che dice: se continuano così, Roberta, qua sarà il governo che rientra in Forza Italia. Procediamo però con le altre notizie. La Concordia torna ad inclinarsi, la nave. Il primo di 19 cassoni montato sul lato di dritta ha ceduto, è avvenuto questo pomeriggio nel cantiere all'isola del Giglio. Intanto oggi è arrivato l'Economic Outlook dell'OCSE, le previsioni economiche, cioè dell'organismo internazionale. Nell'Eurozona la crescita è migliorata e la fiducia continua a dare segnali positivi, ma la ripresa guadagnerà slancio solo lentamente, così si legge. Sull'Italia il barometro fa registrare un lieve peggioramento, ma il ministro Padoan vede segnali incoraggianti. Il giorno dopo le previsioni economiche della Commissione europea tocca all'OCSE raffreddare le aspettative sulla crescita del PIL italiano. L'organizzazione rivede a ribasso le stime 2014, portandole a mezzo punto percentuale, un decimale in meno rispetto a novembre. Sul prossimo anno la crescita attesa all'1,1%. Le previsioni OCSE sono lievemente inferiori a quelle di Bruxelles e del governo, lasciando intravedere una ripresa sostanzialmente al rallentatore. Nel 2015 il rialzo del PIL tricolore, afferma l'organizzazione parigina, dovrebbe venire trainato dal ritorno della fiducia e dai moderati tagli alle tasse. Anche il bonus IRPEF dovrebbe contribuire a sostenere i consumi. Dall'OCSE un riconoscimento al governo che, scrive, ha portato avanti il consolidamento di bilancio. Tuttavia, il livello del deficit non è sceso a causa della debole attività economica. Solo il prossimo anno il deficit dovrebbe calare finalmente al 2,1%. Diverge l'analisi OCSE rispetto a quella della Commissione europea sul fronte debito. Se Bruxelles prevede un picco quest'anno e un calo il prossimo, a Parigi vedono un calo solo dal 2016, con una persistente vulnerabilità del sistema paese a potenziali scossoni da parte dei mercati. Permane l'allarme di disoccupazione destinata a scendere lentamente. Resta ottimista da Bruxelles il ministro dell'economia Piercarlo Padoan. Complessivamente io ritengo che l'analisi dell'OCSE sia molto incoraggiante per il paese. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Tra l'altro vedo un'agenzia in cui Napolitano dice: l'Italia darà un segnale di svolta sulla crescita. E dall'OCSE arriva anche l'appello per un cessate il fuoco in occasione delle elezioni presidenziali ucraine che si terranno il 25 maggio come quelle europee. Da Kiev però arrivano segnali contrastanti. Kiev chiede sostegno alla comunità internazionale perché aiuti l'Ucraina a organizzare elezioni presidenziali credibili il 25 maggio. La Russia invece, che ha tutto l'interesse a screditarle, sostiene che il voto dovrebbe essere rinviato perché prima l'Ucraina dovrebbe cambiare la Costituzione in modo da introdurre un regime federalista. Inoltre, come ha detto a Vienna il ministro degli esteri Sergei Lavrov, è un controsenso votare nel momento in cui l'esercito interviene contro una parte della popolazione. Ma mentre le forze di Kiev cercano di accelerare l'offensiva nell'est dell'Ucraina proprio per arrivare a fine mese a controllare la regione, la diplomazia resta un punto morto. Lavrov ha escluso nuovi negoziati a Ginevra se non potranno partecipare i gruppi dell'opposizione filorussa. Il ministro ucraino Deshchitsia risponde che il governo di Kiev riavvierà i colloqui solo se Mosca riconoscerà le elezioni. In questo circolo vizioso, i ministri dell'energia del G7 riuniti a Roma hanno confermato l'impegno a sostenere l'Ucraina, preoccupati per le conseguenze della crisi sulla sicurezza energetica. Ma a meno di 3 settimane dal voto, trovare una via d'uscita credibile in tempo e chi sia in grado di farla accettare è ancora impossibile. Antonella Scott, Radio 24, Sole 24 Ore. Marco Gai, torinese, classe 1976, è il nuovo presidente dei giovani imprenditori di Confindustria, è stato eletto dal Consiglio Nazionale degli Under 40 praticamente senza sorprese e sarà il leader dei giovani industriali per il triennio 2014-2017. Sentiamolo. Il nostro programma e il nostro triennio sarà incentrato su una parola chiave che sarà innovazione. Sotto l'aspetto innovativo, quindi di pensiero, visione e strategia, e vogliamo portare avanti il nostro operato su 6 parole chiave che vogliamo avere sempre ben presenti, che sono giovani, perché i giovani imprenditori devono operare per i giovani di oggi e per il futuro del paese, la competenza, per esprimere la competenza di cui siamo dotati e con cui viviamo giornalmente, la responsabilità delle nostre azioni, del fare impresa e del investire sul nostro territorio. Il cambiamento, noi crediamo di poter essere facilitatori e promotori del cambiamento di cui il nostro paese ha bisogno e molto spesso si parla, ma noi vogliamo mettere in azione questa possibilità di parlare e di promuovere il cambiamento. Siamo alla cronaca, un nuovo femminicidio, una guardia giurata ha ucciso la moglie e poi si è costituito, è accaduto nella loro abitazione a Fossano, nel Cuneese, al momento non si conoscono altri particolari. E per chiudere, la Ferrari non è in vendita, così assicura Sergio Macchione durante la presentazione del piano industriale del gruppo, mette così fine ad ogni voce. A proposito di voce, vediamo se riusciamo a sentire proprio qualche secondo Crozza Ballarò, a parte gli applausi. Veramente, dottor Carogna, io preferirei parlare con Renzi. Con chi? Renzi! Chilo guaglione mi deve ancora 80 euro. Sto parlando delle presunte trattative tra gli ultra e... Si capisce bene se è in forza dell'ordine. Aspettiamo insieme, Marco. Facciamo una cosa buona, Merkel. Tu metti via lo spray. E io dico ai miei di mettere via la sprang. Effetto notte. Le notizie in 60 minuti. Roberta Giordano sempre con voi, tra poco torneremo a parlare del caso di Cronaca Nera a Firenze con un famoso scrittore, uno dei più noti scrittori di thriller, però prima vi ricordo brevemente quali sono state le notizie della giornata. Per l'appunto Firenze spunta un'altra vittima che però fortunatamente si è salvata, si parla di altri casi simili e parte la caccia al serial killer. Calcio violenza, stadi vietati per 5 anni per l'ultra dell'Olimpico e questa sera il Napoli è tornato in campo contro il Cagliari, si sta giocando la partita, ha annunciato il DASPO anche per chi indosserà le maglie pro speziale, ma prima sentivamo da nostro Dario Ricci che per il momento non si vedono per fortuna queste magliette allo stadio. Congresso della CGIL, la leader Camusso contro Renzi, senza concertazione dice si distorce la democrazia. Forza Italia pronti a entrare nella maggioranza per il bene del paese, fa sapere Berlusconi. Per quanto riguarda la Ferrari, Marchionne assicura che non è in vendita, il cavallino resta a casa Fiat. E saluto Donato Carrisi, benvenuto Donato. Buonasera, grazie. Grazie dell'onore, scrittore, sceneggiatore, firma del Corriere della Sera, autore di romanzi bestseller come Il Suggeritore, l'ultimo è L'ipotesi del male. E Donato Carrisi, come vi dicevo, uno dei più noti scrittori, i suoi bestseller sono diffusi non solo in Italia ma anche nel mondo, di thriller, quindi non soltanto si intende, diciamo, della materia, anche se purtroppo qui parliamo di realtà, ma dopo che ti sei laureato in giurisprudenza hai fatto anche studi di criminologia, di comportamento umano, no, Donato Carrisi? Esatto, ecco, quindi... esatto. Senti, quando quindi fuori dalla tua dimensione dei romanzi senti di fatti purtroppo reali che accadono purtroppo di frequente, che cosa pensi? Soprattutto rispetto a quest'ultimo caso, dicevamo, della giovane donna Andrea Cristina Zamfir, romena di 26 anni, che è stata trovata morta ieri al confine fra Firenze e Scandicci, nuda, legata a una sbarra come crocifissa dopo terribili sevizie di vario tipo, e adesso pare che si stia parlando anche di precedenti, almeno 6-7 casi, indagini che riguardano gli ultimi 10 anni, e oggi proprio è spuntata anche un'altra testimone che ha raccontato che siccome era tossicodipendente doveva procurarsi la droga, si era prostituita per un certo periodo ed era incappata in un uomo più o meno di questo tipo, ma si era salvata. Tu che cosa hai pensato di fronte a questo caso, Donato Carrisi? Prima di tutto bisogna fare delle precisazioni, si tratta di un aggressore seriale che è passato ad uccidere, è un po' presto per chiamarlo serial killer, anche perché il serial killer da un punto di vista convenzionale deve aver commesso almeno 3 omicidi con le stesse modalità, quindi altrimenti non si può parlare sicuramente di serial killer. E bisogna vedere quanto effettivamente sono legati questi casi di violenze tra loro, perché non è raro che le prostitute siano vittime di violenza ed è difficile che denuncino tale violenza, proprio per il mestiere che svolgono. Purtroppo il nostro paese nel nostro paese si parla tanto di femminicidio, di violenza sulle donne, e poi si nega una protezione semplicissima, quella alle prostitute, anch'esse donne meritevoli di protezione. E sempre uccise da mano maschile, diciamo, no? Siamo sempre più o meno negli stessi schemi anche in questo caso, anche se sono prostitute, no? Sì, sì, sì, però è più difficile che denunci l'aggressione subita, perché potrebbero subirne delle ulteriori conseguenze da parte dei protettori, dei loro protettori, per esempio. Quindi molti di questi casi passano sotto silenzio. Alcune violenze vengono denunciate, ma non è detto che possano essere ricondotte alla stessa mano. Io mi chiedo quante prostitute ogni giorno vengono aggredite, picchiate e sono sul punto di morire, da parte dei clienti ovviamente. Certo. Tra l'altro, adesso ce ne ricordiamo perché abbiamo trovato una di loro legata ad una sbarra, crocefissa ad una sbarra. Ecco, io preferirei che questa parte romanzata della realtà fosse lasciata a noi scrittori. Anche il fatto di definirla crocefissa, ecco, è un modo come per inzuppare questa vicenda del sangue, insomma, mi sembra un po' eccessivo. Senti, comunque, a proposito di questo modo di legare, gli inquirenti dicono che questo nastro adesivo che è stato utilizzato appunto per legare le braccia della donna sia stato usato in 6 casi sospetti. Adesso qui dicevo di questa testimone che non so se sia venuta fuori oggi a parlarne o se magari abbia denunciato il caso e proprio perché è prostituta non sia stata presa molto seriamente, però ha raccontato di una cosa molto simile, insomma, che è avvenuta, se non sbaglio, l'anno scorso. Questo, e ha descritto anche l'uomo dicendo era un po' tarchiato, non molto alto, parlava italiano con accento fiorentino, era brizzolato, con pochi capelli e furgone bianco. Furgone bianco, sì, una macchina furgonata. Perché ritorna sempre il furgone bianco. È uno degli aspetti più comuni delle testimonianze, quello del furgone bianco. Quando si parla di un delitto, di un rapimento, di un'aggressione, spunta fuori questo veicolo, forse perché ce ne sono troppi in giro. Ecco, già da questo punto di vista, la presenza del furgone bianco dovrebbe mettere in dubbio la dichiarazione della donna in questione. Però dico una cosa, Donato Carrisi, le persone intorno a quella zona, a quel cavalcavia, da una parte dicono che prima che fosse costruita quella parte di autostrada lì era un paradiso, poi dopo con questo cavalcavia è diventato un luogo degradato che ovviamente alimenta e incoraggia, no, un certo degrado anche umano. E dicono poi appunto gli abitanti di quella zona, dice qui c'è qualcuno che si diverte, dice una donna, si diverte a essere crudele sempre allo stesso modo. Ai citofoni delle case fra il cavalcavia e il cimitero hanno suonato più volte donne in difficoltà, per usare un eufemismo, in difficoltà, nude, rapinate, con lividi sul corpo, hanno urlato la loro disperazione, hanno chiesto aiuto sempre alle stesse porte. Ora io mi chiedo, chi ha ricevuto queste richieste d'aiuto non ha poi denunciato la polizia, o sono polizia, gli inquirenti, non lo so, che non hanno abbastanza sufficientemente indagato su, perché dicono che appunto era un continuo spesso, no, di donne che nude e disperate che chiedevano aiuto a questi citofoni. È proprio il discorso che ho facevi fatto prima all'inizio. Cioè, sono molte prostitute che vengono picchiate ogni giorno, perché appunto non c'è nessun tipo di tutela nei loro confronti. Sicuramente qui ci troviamo di fronte ad un predatore sessuale, sempre che si tratti della stessa persona. I predatori sessuali cacciano nella stessa zona, sempre nella stessa zona, perché conoscono il loro terreno di caccia, sono abituati, si sentono sicuri, conoscono anche le vie di fuga. Io mi sto domandando che cosa farà questa persona in questo momento. Aveva previsto la morte della prostituta, nel senso, l'aveva voluta la morte della prostituta, o è stato un evento accidentale? Ha tirato un po' troppo la corda, e se così è stato, gli è piaciuto, perciò lo rifarà, oppure si fermerà qui? Mi stupisco di questo dettaglio del nastro adesivo, questo dettaglio che sia stato tirato fuori con tanta leggerezza, perché di solito gli inquirenti tengono per sé determinate informazioni anche per confutare le eventuali dichiarazioni di mitomani o anche di persone che vengono fermate e quindi interrogate. Perché è stato diffuso questo dettaglio? Perché c'è una pista? Perché si vuole mettere in un certo senso paura a qualcuno che in queste ore potrebbe commettere un passo falso e quindi farsi arrestare? Io penso che questa storia possa trovare una soluzione in tempi brevi. Mi preoccuperei nel caso in cui la soluzione non arrivasse nel giro di una ventina di giorni. Perché dici, ormai di indizi ce ne sono, insomma, no? Anche testimonianze della gente che dicevo prima che abita in quei luoghi. Poi tu dici che il predatore sessuale colpisce più o meno sempre nella stessa zona. Mi sembra che qualche facilitazione, diciamo così, per chi indaga ci possa anche essere a un certo punto. Ma sicuramente, ma ci saranno altre prostitute che potranno essere interrogate in queste ore e forniranno la loro versione. Non è difficile individuare un predatore sessuale perché ha più o meno sempre gli stessi comportamenti, ha le stesse fissazioni, insomma, le stesse perversioni, non è difficile. Io penso ad altri predatori sessuali che poi si sono trasformati in serial killer, per esempio penso a Bergamo, insomma, ce ne sono parecchi. Avevano un modus operandi che poi li ha fregati in un certo modo. Senti, Donato Carisi, mi viene a farti questa domanda, cosa che pensano in molti, no? Il fatto di scrivere romanzi con particolari, non dico i tuoi, ma in genere i thriller magari particolari, sanguinolenti, in cui magari ci si indugia o ci si crogiola in certi elementi macabri, torture, sevizie, così come i film. Secondo te letteratura e film di questo tipo possono un po', soprattutto in chi già è disturbato, ma anche chi non è disturbato a volte, cioè gli stupri non sono sempre fatti per esempio solo da disturbati, no, diventa proprio un tipo di cultura, di mentalità, possono alimentare un certo tipo di comportamento di questo tipo? Guarda, in casa dei violenti di solito non si trovano libri, cioè questa cosa mi consola parecchio, non è così, sono di solito motivati da un altro tipo di cultura. La cultura pornografica, per esempio, alimenta le loro fantasie molto più facilmente di una fiction, di un film o di un bel romanzo, anche perché nei film, nelle fiction, nei romanzi di thriller o polizieschi c'è sempre una soluzione per il male. Alla fine è vero che noi indugiamo su determinati comportamenti che sono proprio l'ultimo stadio dello spettro dell'umanità, diciamo così, però offriamo anche una soluzione a questi comportamenti. Di solito il violento alimenta le proprie fantasie attraverso altri canali. Dicevo prima, la pornografia se si tratta di predatori sessuali, la pornografia è sempre più estrema e non è difficile trovarla soprattutto in internet. Donato, per chiudere ci ricordi un po', almeno ci dai una traccia della trama, del contenuto del tuo ultimo romanzo? L'ipotesi del male è stato il seguito del suggeritore, che è stato il mio esordio praticamente, che necessitava di un secondo capitolo, anche se scollegato dal primo. Io amo dire che si tratta di due libri gemelli, non si sa quale dei due è il più cattivo. Il secondo è la storia di persone scomparse. Ci sono casi all'ordine del giorno, persone scomparse che però in questo caso hanno deciso volontariamente di sparire e tornano per uccidere. Donato Carisi, io mi auguro comunque che la tua previsione sia vera, il fatto che in pochi giorni possano arrivare al colpevole. Diamo questo auspicio. Lo auguro anch'io. Grazie Donato Carisi, grazie, buona continuazione, ciao. Ci prendiamo una pausa pubblicitaria, poi ci sono vari altri temi e sempre con i vostri commenti al 349-238-6666 e sulla pagina Facebook di Effetto Notte come sempre. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Pochi minuti di nuovo con voi, Roberta Giordano. Adesso vi racconto brevemente le notizie principali della giornata, se avete acceso in questo momento, se ve le siete dimenticate, se avete voglia di risentirle, e tra poco parleremo in particolare di politica. Firenze, la donna crocifissa, 6-7 precedenti, indagini sugli ultimi 10 anni, si riaffaccia il fantasma del mostro a Firenze e casi simili anche a Prato. E poi per quanto riguarda le altre notizie, scontro tra CGIL e governo, la segretaria della CGIL Camusso dice Renzi distorce la democrazia e Renzi risponde la musica è cambiata. Scontro, poi invece accordo sul testo base, cioè del disegno di legge sulle riforme, si va verso l'ok, mediazione prevede poi delle modifiche, il testo di Forza Italia sul presidenzialismo. Fiat Marchionne rilancia l'Alfa e punta un aumento di 400.000 auto, è presentato il piano industriale oggi, dice la Ferrari non è in vendita. E poi per quanto riguarda il calcio e violenza, stadi vietati per 5 anni per l'ultra dell'Olimpico, e questa sera sapete che si sta giocando Napoli-Cagliari, per il momento tranquillo per fortuna. E poi parliamo di Forza Italia, appunto pronti a entrare nella maggioranza per il bene del paese, fa sapere Berlusconi, adesso ne parliamo. Guido Gentili, bentornato, editorialista del Sole 24 Ore. Buonasera. Ciao Guido. A voi. Gli argomenti sono moltissimi oggi di politica, si parla di riforme e ho visto appunto poco fa, insomma, che si è sbloccato per il momento questo disegno di legge sulle riforme, c'è stata una mediazione, poi cercheremo di capire dopo se è il caso bene che tipo di mediazione è stata. Poi con l'apertura del congresso della CGIL, la segretaria Camusso che ha attaccato Renzi dicendo che questa è una distorsione della democrazia, insomma che fa un po' il ducetto, vogliamo così dire, visto che si usa molto la parola da diversi giorni, da diverse settimane, di fascismo, sia nei confronti di Renzi, sia nei confronti di Grillo, eccetera. Poi Berlusconi che riapre alla maggioranza e anche alle primarie, poi Squinzi, il presidente di Confindustria, che ha risposto agli euroscettici intervenendo alla LUISS di Roma, e ti faccio sentire esattamente che cosa ha detto. Gli anti-euro italiani sostengono che le esportazioni volerebbero con in mano la lira leggera. La mia controobiezione è duplice. In primo luogo, le nostre esportazioni volano già, ma sulle ali della capacità industriale delle nostre imprese italiane. In secondo luogo, proprio la droga della svalutazione per competere è stata la base di tanti dei mali profondi della nostra economia. Le imprese nulla avrebbero a guadagnare dalla fine dell'euro. La fine dell'Europa la pagherebbero e a carissimo prezzo le economie nazionali debole e indebitate. Se le forze che ambiscono a demolire la casa comune avranno grande spazio, comincerà un periodo ricco di incognite e certamente di difficile gestione. Confindustria non fa mai appelli elettorali. Questa volta mi sento di rompere una tradizione. Lo faccio consapevole del fatto che il nostro richiamo sia quanto mai necessario. Votare oggi per l'Europa significa non mettere a rischio l'unica grande visione comune costruita nel secondo dopoguerra. Questo, insomma, Guido Gentili, è stato l'intervento di oggi di Squinzi, visto che ci avviciniamo anche alle elezioni europee, 25 maggio, ha voluto dire quello che pensa su l'euroscetticismo non solo a fronte dell'Europa, soprattutto l'euro in senso di moneta, no? Visto che sono in molti ormai, lo stesso Berlusconi mi pare oggi abbia detto o la BCE cambia un po' politica economica o si esce dall'euro. Sì, bisogna, a parte che ancora nessuno ha mai spiegato come si esce, come si può uscire dall'euro, sì. Tanto per cominciare. Sì. Poi credo che sia opportuno distinguere appunto tra quella che è la discussione sulla moneta unica, su come è stata realizzata, sui problemi che ha posto la sua costruzione e, diciamo, è l'Europa in quanto idea d'Europa, quindi sono due cose completamente diverse e credo che una discussione seria e serena su questi temi debba appunto appuntarsi sui fatti e sui modi per cui questa moneta unica in qualche modo è stata una grande occasione, è stata una grande conquista, però ha presentato anche dei limiti oggettivi e di questo bisogna ragionare, non dire semplicemente usciamo dall'euro perché andiamo verso il nulla con l'uscita dall'euro messa in questi termini. Invece per quanto riguarda quello che ha detto oggi la segretaria della CGIL Camusso, segretaria generale, no? A proposito di quello, sì, che sta facendo il governo Renzi, in particolare sul lavoro, ma non soltanto, anche sulla mancanza in generale, le dice, di concertazione, perché Renzi l'ha detto già da tempo che lui comunque è contrario, l'ha detto in modo piuttosto schietto. Sentiamo allora Renzi che cosa, sentiamo la Camusso invece che cosa ha detto oggi, proprio uno stralcio al congresso. Abbiamo registrato da più governi a questa parte l'insofferenza verso la concertazione, insofferenza diventata sempre più esplicita fino ad attribuirgli tutte le responsabilità, già affacciata da Monti e ribadita dall'attuale Presidente del Consiglio. Constatiamo con tutta la tranquillità necessaria l'ingenerosità di quei giudizi verso il mondo del lavoro. Contrastiamo e contrasteremo l'idea di un'autosufficienza del governo che taglia non solo l'interlocuzione con le forme di rappresentanza, ma ne nega il ruolo di partecipazione e di sostanziamento della democrazia. Questa cosa ha spaccato un po', il sindacato spacca un po', no? Il PD, Guido Gentili, sì. Da una parte molti che l'hanno criticata, hanno detto no, il governo sta agendo bene, per esempio invece Fassina ha detto è stato un intervento coraggioso quello della Camusso, tu cosa pensi? Sì, e innanzitutto è una storia questa che appartiene alla sinistra, ricordo a fine anni 90 lo scontro che ci fu tra l'allora Presidente del Consiglio Massimo D'Alema e l'allora segretario della CGIL, leader della CGIL, Sergio Cofferati, proprio in occasione di un confronto congressuale del più grande sindacato italiano. Fu uno scontro molto duro e alla fine prevalse, devo dire, Cofferati, cioè D'Alema e diciamo il suo governo da questo punto di vista, che pure aveva avanzato delle proposte innovative, fu costretto, diciamo, a battere, per così dire, in ritirata. E quindi è un tema questo che si ripropone nella storia passata e recente italiana, questa volta con toni e discussioni di sostanza molto, molto più forti, perché qui siamo a due posizioni radicalmente diverse per quanto riguarda il metodo e il contenuto, diciamo, dei discorsi che avanzano sia Renzi sia il segretario della CGIL Camusso. Sono ricette alternative, per così dire, e quindi sarà, immagino, un confronto che non finisce qui, sarà un confronto. Renzi ha più volte manifestato una grande insofferenza verso la concertazione e credo che sul tema della concertazione intesa come un'interlocuzione, un'interdizione, o meglio, come un prospettarsi di veti continui, di veti incrociati, credo che Renzi abbia ragione. Questo è un problema che ci trasciniamo dietro da moltissimi anni ed è giusto dire che il governo decide, dopo ovviamente aver ascoltato tutti i pareri, dopo aver diciamo, registrato e aperto un confronto ovviamente ampio e approfondito, ma poi ha tutta la legittimità per decidere quello che intende fare. E su questo tema le resistenze però sono molte, e non sono solo della CGIL, sono anche degli altri sindacati e di tantissime categorie che proprio in questi giorni stanno, diciamo, rialzando la testa legittimamente, avanzando le loro proposte, le loro idee, le loro contestazioni sulle riforme prospettate dal governo, ma in qualche modo, diciamo, cercando di bloccare un processo di riforma che secondo me invece deve comunque andare avanti, magari con delle correzioni, ascoltando certamente i pareri di tutti e quindi decidendo alla fine per il meglio, per raggiungere, diciamo, il massimo di operatività e di consenso possibile, però bisogna pur decidere qualcosa alla fine. Invece, passando a Berlusconi, Guido Gentili, oggi Berlusconi, Radio Anch'io, ha detto che non esclude di poter entrare nella maggioranza di governo Forza Italia, no? Dice se questo fosse necessario per l'interesse dell'Italia. È vero che dopo, in serata, più tardi, ha detto solo se succedesse una catastrofe, come al solito dice e si corregge, vabbè, comunque ha detto questo, però diciamo i maligni, vogliamo dire, anzi no, in questo caso è Guerini, vice segretario del PD, che ha detto che le parole dell'ex premier in realtà sono frutto della lettura dei sondaggi e del fatto, dice Guerini, che i cittadini credono in Renzi e nel governo, noi andiamo per la nostra strada, avanti insieme nel percorso delle riforme, ma senza guerre ideologiche, senza inciuci. Mentre Gaetano Quagliariello, ex di Forza Italia, adesso il nuovo centrodestra, dice è l'ennesimo controordine, quello di Berlusconi, è l'ennesimo controordine nei compagni, poteva pensarci 7 mesi fa. Perché, sì, secondo te, qualcuno scrive sulla pagina Facebook di Effetto Notte, è una tattica di Berlusconi, e qualcun altro dice sì, giusto per riavere Brunetta, la Mussolini, Santanchè, eccetera, la ribalta, insomma, chi è critico, chi invece dice di avere scoperto di avere la forza italite acuta. Che ne pensi? Ma io penso innanzitutto che tutti in questo momento, tutti i maggiori leader dei vari partiti, e quindi penso ovviamente a Berlusconi, ma anche Renzi, anche Grillo, ovviamente hanno giorno per giorno i sondaggi in mano e orientano le loro scelte quotidiane, purtroppo guardando tutti i sondaggi, quindi credo che sia una pratica diffusa questa. E, per quanto riguarda Berlusconi in particolare, non mi meraviglia affatto il comportamento di Berlusconi, che è in una condizione molto particolare, come sappiamo, perché c'è in corso un affidamento dei servizi sociali, quindi è una situazione del tutto nuova e potenzialmente anche incidente su quella che sarà la campagna elettorale. Vedremo come, se lui diciamo che è dotato peraltro di grande fantasia da quando è in campagna elettorale, come saprà diciamo gestire questa sua particolarissima stagione. Ma detto questo, ripeto, non mi meraviglia che diciamo ogni giorno in qualche modo cavalchi l'attualità con delle proposte, e ne sentiremo tante da qui al 25 di maggio, ultima quella appunto di prospettare un ingresso addirittura nel governo. E del resto lui insieme a Renzi ha costruito un percorso di intese per quanto riguarda le riforme istituzionali, e quindi è chiaro che se il voto del 25 maggio, che tra l'altro ricordiamolo è un voto che riguarda l'Europa e invece in Italia è vissuto da tutti come una sorta di resa dei conti interna al quadro politico italiano, e quindi questo complica sempre e peggiora diciamo il quadro politico nel quale ci troviamo. Insomma, se le elezioni dovessero essere in qualche modo non brillantissime per il nuovo Presidente del Consiglio e segretario del PD Renzi, se dovesse avere un eccellente risultato come altro nei sondaggi in questo momento il Movimento 5 Stelle di Beppe Grillo, e se Berlusconi dovesse in qualche modo confermare anche i risultati del 2013 più o meno, quindi si creerebbe di nuovo diciamo una situazione di governabilità difficile, anche se non è corretto comunque stabilire che rispetto al voto che andremo alle europee ha un'influenza immediata sul quadro politico italiano. Certo, ma di questo stiamo parlando nei fatti. Infatti, di questo poi avremo tempo di aggiornarci, non sono molti giorni, ma ci saranno ancora ulteriori sviluppi, come hai detto tu, ognuno poi si regola man mano dai sondaggi, dalle giornate, eccetera, sulla tattica. Grazie Guido Gentili intanto. Grazie a voi. Buon lavoro, buona continuazione. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. In pochi secondi ve le ricordo e poi passeremo ai 3 minuti d'Europa a proposito delle violenze negli stadi vietati per 5 anni per l'ultra dell'Olimpico, e è ancora in corso naturalmente la partita Napoli-Cagliari. Poi vedremo più tardi, tra poco, se ci sono degli aggiornamenti sul risultato. Congresso della CGIL, l'avete sentito, la leader Camusso contro Renzi dice: senza concertazione si distorce la democrazia ucraina. L'Unione Europea preme per il rispetto degli accordi, Mosca apre a Ginevra 2, e per quanto riguarda la Ferrari, Marchionne assicura che non sarà venduta, resta in casa Fiat. Europa 24 notte. Saluto Giampiero Samorì, candidato di Forza Italia alle elezioni europee nella circoscrizione Nord-Est. Buonasera Samorì. Buonasera a lei, grazie. Senta, sulle primarie lei ha detto oggi che condivide pienamente la posizione del presidente Berlusconi, quindi si troverà insomma un nuovo candidato, un nuovo leader. Però al di là di questo, spostiamoci più verso l'Europa, visto che lei è candidato per l'appunto all'Europea. A proposito dell'affermazione sempre di Berlusconi che, attaccando la Banca Centrale Europea, ha detto: o cambia o siamo fuori dall'euro. Che ne pensa? Sono totalmente d'accordo. Guardi, il punto è questo: o la BCE è sostanzialmente orientata dal potere politico europeo e decide di fare una politica a favore delle imprese e delle famiglie e non solo delle banche, o il nostro sistema salta. Se noi diamo solo soldi alle banche, non alle imprese e alle famiglie, noi tutte le nostre aziende saltano. Quindi il concetto è molto semplice: o la BCE fa una politica di sviluppo a favore di imprese e famiglie, o noi non possiamo più restare nell'euro. Poi ci sarebbe appunto da spiegare, si diceva prima, anche come si potrebbe ripassare dall'euro alla lira, Giampiero Samori. Però quello che vorrei sapere da lei è sinteticamente quali sono in questi 3 minuti i 3 punti principali del programma politico di Forza Italia per le europee. Guarda, io penso che il primo punto principale l'abbia finalmente espresso oggi il Presidente Berlusconi. Bisogna che la BCE cambi completamente il profilo. Una politica volta allo sviluppo, l'attribuzione del credito direttamente a famiglie e imprese e quindi la possibilità di definire un nuovo modello di sviluppo. Secondo, nuovo modello di sviluppo vuol dire pensare all'Italia 2050, ad esempio. Noi dobbiamo chiedere alla BCE 100 miliardi all'anno di investimenti straordinari nell'edilizia per demolire le abitazioni e riqualificare il territorio, altrimenti non si crea edilizia. Terzo, dobbiamo chiedere una riperequazione dal punto di vista del contributo da parte dei paesi più ricchi rispetto a quelli più in difficoltà in Europa. Noi non dobbiamo dimenticarci, e questo forse va ricordato a tutti, che dopo la guerra l'America abbuonò alla Germania un debito pubblico pari a 4 volte il PIL senza chiedere nulla in cambio. Ora, questo fatto alla Merkel va rimarcato. Ci sono dei momenti nella storia dove le questioni non sono solo economiche, sono di pace e di guerra dei 100 anni a venire. Se i tedeschi non comprendono per miopia e per egoismo questo fenomeno, si pongono fuori dalla tradizione dell'Europa occidentale. Bene, è stato chiarissimo nei 3 minuti europei, Giampiero Samori. Questo appunto è il programma politico sinteticamente di Forza Italia. Grazie. Grazie a lei. Grazie, buona continuazione. Europa 24 notte, in collaborazione con Euronet Plus.